Test attitudinale bello allegro di quest'oggi. Ci chiedevamo qual è il giorno in cui morì la musica per gli americani, The Day the Music Died. Forse il 16 agosto del 77, giorno della morte di Elvis Presley? Beh, è stata una grande, grave perdita, ma forse no. No, non è questo, forse, e allora no. Forse vado avanti, Il 3 febbraio del 59, lo schianto dell'aereo che trasportava Richie Valens e Buddy Holly. Ma ci siamo già più vicini, io la passerei per buona. È la risposta esatta, è questo, The Day the Music Die, la tragica sorte che colpì Richie Valens e Buddy Holly. Ricordiamo tra l'altro che proprio per quanto riguarda Richie Valens fu una disgrazia incredibile, perché si giocò alla sorte l'ultimo posto disponibile per questo aeroplano con il chitarrista Tommy Alsup, che rimase poi in vita, e purtroppo invece sia Richie Valens che Buddy Holly morirono in questa disgrazia aerea il 3 febbraio del 59, quindi è The Day the Music Die, non il 18 novembre 70 quando scomparse invece Jimi Hendrix. Pensate alla sorte, proprio se la giocarono con una monetina, per avere questo posto disponibile sull'aereo, quando si dice il destino. A volte è proprio beffardo. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the world can see that you. Mariali, oh boy, ultima mezz'ora di pane, burro e rock and roll. Ho cercato di avvisarvi nel corso della puntata di quest'oggi, soprattutto voi che non avete mai sentito questo programma, siete ancora in tempo, girate stazione radiofonica, ascoltare pane, burro e rock and roll fa male. Ho detto prima, potreste ritrovarvi da un momento all'altro, così in qualche città sperduta in Italia, vestiti in maniera poco decorosa, perché volete partecipare a un raduno surrealista. Ma voglio salutare nello specifico Bino, che ha compiuto da poco 29 anni, gli facciamo gli auguri di compleanno, ci scrive sua moglie Francesca. Allora Bino, vorrei parlarti direttamente. Tua moglie spiega che sei un super appassionato di pane, burro e rock and roll, la cosa ci fa molto piacere. Da quando per il primo anniversario di matrimonio hai deciso di comprarti una radio sveglia per svegliarti con pane, burro e rock and roll e sostituire con il BBB BBB, hai avuto sì un'ottima idea, ma mi svegli anche il bambino. Vediamo di organizzarci, perché sennò la povera Francesca poi deve stare dietro al bambino che si è svegliato con pane, burro e rock and roll. Quindi non so come dirti, buon compleanno te lo facciamo, continua ad ascoltare pane, burro e rock and roll, quando ti perdi pezzi, bravo, continua a scaricarteli per sentirli anche in fuorisincro, ma vediamo di mantenere il matrimonio, perché Francesca lo fa intuire dalla mail. Cioè va bene pane, burro e rock and roll, bravi, simpatici, bella musica, però se mi svegli il bambino tutti i giorni sono robe che minano la vita sentimentale delle persone. Grazie Bino per l'affetto col quale ci segui. Avrai la tua patente prima o poi. When routine bites hard and ambition's alone, resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our way, taking different roads. Then love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? Turned away on your side. Is my timing that floor? Our respect runs so dry. Still this appeal that we kept through our lives. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Sì, sì, sì, sì, che bello essere qui e fare la radio. È la cosa mi più piace. Bella del mondo, le piace parecchio, eh? Sì, mi piace perché la radio è immaginifica. No! Oddio, aia, questo campanello. Oddio, stavo riconosco. Affrontando un concetto fondamentale. Ha fatto qualcosa di male quest'oggi, Freak? No, ha sporcato il vetro. No, niente, che è il portinaio Peretti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Oh, ma io sto molto bene. Bene, ma voi ragazzi, e invece come state? Guardi, oggi io sono entrato con i guanti, mi sono pulito le scarpe no, prima di entrare. Ho visto. Aria Ruffiano. Perché no? Ma anche lei la. Stavo difendendo anche lei perché. Ah, sì? Siete stati impeccabili, realmente. Voi siete non come quella del quinto piano che ho dovuto fare una piccola punizione corporale, ma non sono qui per parlare di queste cose perché oggi veramente sono stato molto felice. Perché si capisce che avete a che fare con questo pubblico televisivo che... No, la radio. Che siamo in radio. Questa è radio. Rock FM si sente sulla radio Nina, la sintonizza, Milano, 100,7, ci sente. Voi in televisione siete gentili e molto carini. Volevo suggerirvi una piccola cosa per migliorare questa trasmissione televisiva. Peretti, radio, lo vede questo? È un microfono, no telecamera, glielo dica Fred. Ma sì, ma... Cioè non ci si vede. Però, insomma, se lei è più... si sente meglio, più a suo agio a pensarla come TV, ecco, faccio pure. Io ho portato qui questi Freak Ruffiano. Ho quest'idea qui. Io ho una nipote che è bellissima. Ma dai! Una nipote veramente. Giovane? Giovane, simpatica, molto disinvolta. Può interessarsi. Fidanzata? Sì. Allora, non è fidanzata, si chiama Pannocchia. Bel nome, così? Complimenti, Pannocchia. Chissà le battute che le hanno fatte a scuola. Perché è la Pannocchia, Peretti, dai, su, non faccia così. Beh. Sì, sai, avrà come preso sono i ragazzi, sono un po' maliziosi. Cosa stai dicendo? No, si chiama Pannocchia perché il nonno si chiamava Pannocchia, è tutto molto chiaro. Guarda che anche Pannocchio non è che proprio sia un nome esaltante. Siamo nell'ambito dello schifo, esatto. Se posso essere sincero, ma nel senso buono, non ci equivochi. Beh, in ogni caso, lei non so come mai ha deciso di assumere un pseudonimo. Ovvero? E si chiama Jennifer. Jennifer Pannocchia. Jennifer, in casa la chiamate così? Jennifer Pannocchia Peretti. Sapete come sono le ragazze di oggi? Sì. Perché Pannocchia per me è un nome bellissimo. Certo. Ma lei, insomma, vuole lavorare con voi in televisione, dice... Radio, facciamo la radio, signor Peretti. Ma la conosciamo volentieri. Sì, ci piace. Quindi mi piacerebbe che voi facciate di tutto per far sì che questa Jennifer, la mia Pannocchia, potesse lavorare finalmente in TV con noi. Dunque non è in televisione, le spiego, è difficile, nel senso che questa è una radio. Cosa voleva fare? Può fare una rubrica o l'oroscopo? L'oroscopo, oppure, sì, oppure le previsioni del traffico, il tempo, i servizi. Lei vorrebbe fare la velina. Ho capito, Peretti, la velina si fa in televisione, quelle belle scosciate che vanno. Qui in radio non si può fare perché è radio. Sì. Se non la assumete come velina, vi faccio una collana di dinamite e vi faccio esplodere come fosse Capodanno. Pensateci su, ragazzi. Ci penseremo, arrivederci. Porti una foto, magari, portinaio. Interessante quell'idea della nipote. Ma portinaio o portiere? Non lo so, in effetti sono sempre indeciso. Portiere o portinaio. Comunque porti una foto. Può servire. Volavano senza vento i Timoria qualche annetto fa, sono le 8:45 minuti primi. Questa è la colazione di pane, burro e rock and roll. Amici, amiche là fuori, se ieri non c'eravate, lui sicuramente c'era, Mario. Altro che i carristi di Viareggio, buona giornata, Mario! Ciao, buongiorno. Il costruttore del Rock FM Express. Com'è il risveglio da vittoriosi? Bello ma traumatico, sono a pezzetti. Allora, io ho cercato di salutare e ringraziare tutti gli amici che sono venuti ieri, soprattutto le delegazioni di Milano che mi hanno molto colpito. È stato un piacere vedere che la gente partiva da Milano. C'è, ti accennavo via mail, mi è arrivato questo messaggio da Luca che dice: bravi, bello il treno, bello il cannone, però la nave era migliore, lo dicono anche le mie figlie. Non è vero. Perché poi è affondata quella nave. L'avete sfondata, Mario? Siamo affondate a cannonate. Fatta. Tra l'altro io ringrazio gli dèi del rock and roll che ci sono stati vicini. Sì. Non avete fatto male a nessun bambino con quei cannoni con dentro le caramelle. Mario, io te lo dico, hai rischiato. Perché... Ma no, era belle, si paravano in aria. Sì, ma qualche caramella al Tezzo Bimbo io l'ho vista, eh. Sì. Qualcuna sì. Senti, no. Scrivono da Firenze, qualcuno non ci crede che ieri eravamo a Celle Ligure. Cosa dirgli? È tutta invidia. Invidia, e dovevano venire. Provare anche, per crede. Anche perché Mario, adesso dove l'hai messa la coppa? Su che scaffale l'hai già messa? L'ho messa assieme a tutti gli altri miei trofei. Che non oso immaginare di che tipo siano adesso che ti abbiamo conosciuto. Posso dirlo? Devi dirlo. Devo dirlo. Trofeo Fantozzi. Che tra l'altro mi dicevi è già pronto un prossimo? Sì. Prossimo da vedere sul sito trofeofantozzi.it, e dove mi potete trovare. Ti stai già preparando, eh? Non ancora. Però potrebbe che questo treno partecipi. Senti Mario, grazie mille ancora per ieri, ti ringraziano tutti quanti. Puoi testimoniare che le patenti non sono state date a caso, sono state date solo a cowboy e indiani. Certo. Si sappia, certo. Al massimo a un cane, ma anche il cane era vestito da cowboy. Era cowboy, l'ho visto e testimone io. Senti, volevo ringraziare tutti quelli che sono partecipati, e poi volevo ringraziare Max. Il nostro Max D'Arenzano, sì, che ho sentito, purtroppo non ha potuto venire, ma la macchina del fumo c'era. C'era, confermo tutto, l'amplificazione era la sua e tutto quanto. Salutiamo anche la delegazione toscana che si è presentata, mancava solo la delegazione della Romagna, però effettivamente era un po' lontano. Sì, infatti, l'importante è che abbiamo vinto. Abbiamo lasciato il segno anche. Caro Mario, la nicchia almeno ieri ha vinto. Buon proseguimento di giornata, ci sentiamo presto, però quando ti viene che stai facendo qualcosa... Non scriverci dei messaggi, non per forza, capito? No. Perché sennò dobbiamo metterne in piedi un'altra, è un casino. Beh, io la butto lì, poi se viene raccolta, bene. Buona giornata a te, salutiamo anche moglie, figlie, giusto? Grazie. Saluta il macchinista, fai ringraziamenti, Mario. Sì, io vorrei ringraziare il macchinista che mi ha aiutato, cioè veramente lui che è quello che ha buttato la pietra, che mi ha fatto mettere su tutto, poi è scappato, questo da dire, che mi ha lasciato lì da solo a costruire il tutto. No, comunque voglio ringraziare soprattutto voi della vostra collaborazione e anche l'Avis che ha organizzato. Ecco, facciamo delle cose serie, mannaggia. Infatti volevo arrivare a dirlo, l'Avis che ha organizzato questa manifestazione, è una cosa piuttosto seria. Mario, l'importante è che abbiamo vinto, alla prossima, okay. Ciao. Ciao, ciao, ciao. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge. Da sempre chi? Hanno tentato di cosa? Spiegare i meccanismi, quando? I tempi, i contenuti della comicità, dell'umorismo. Lei dice? Sì. Io vorrei inaugurare una nuova rubrica fondamentale, importantissima per capire la comicità. Ovvero? Ovvero partiamo dalle barzellette, the first step. Il primo passo per la comicità. Verso la comicità ed oltre. Quindi lei ci aiuta nella dire. Comprensione dei meccanismi dell'umorismo. Ci sono meccanismi, ma dell'umorismo. Ma sì, ci sono regole, meccanismi, tempi, contenuti, insomma, chi più ne ha più ne metta. E richiedo l'aiuto del mio allievo Brian. Ho sentito parlare. Esatto. Ho visto Spadino che smanettava in regia. Infatti Spadino ci può mettere in contatto con l'allievo Brian, che ci proporrà una barzelletta d'assaggio. Quindi prima lezione del corso per la comicità, esatto. Lo chiamiamo così. Esatto, per la comicità. Per la comicità, esatto. Allora chiedo a Spadino se gentilmente può mandare il contributo di quest'oggi. Ci sono due nani nella foresta che vanno di cespuglio in cespuglio, quando a un certo punto uno dei due trova un fiasco di vino e dice all'altro: guarda, un fiasco di vino. E l'altro: sì, ma senti, perché non andiamo dietro quel cespuglio e ce lo ciucciamo? E l'altro gli risponde: sì, ok, ma il vino lo beviamo prima o dopo? Se la ride, maestro. La trovo esilarante. Sì, esilarante. Abbastanza divertente. Ma sì, il doppio senso. Sì, tra il doppio senso, ciucciare, no, il fiasco. Infatti, il doppio senso, in qualche modo un po' esagerato, forse anche un filino tirato, sì, sul sessuale. Un po'. Un filino, ma molto interessante questa metafora. Innanzitutto i cespugli, no? Sì, esaminiamo questa barzelletta. No, ecco, ma l'abbiamo capita. No, ma approfondiamo i meccanismi. Ecco, sì. I cespugli ad altezza nano, sì. Anche qui insomma, esce fuori un po' di razzismo, insomma, sì. ma positivo, no? Sì. Non ce ne vogliono i nani in ascolto. No. Che peraltro sono sempre molto simpatici, sì, ad altezza cespuglio. Quindi trovano in cespuglio il bicchiere di vino e poi c'è il grande fraintendimento, sì, sul ciucciarselo. Sul ciucciarselo. Questa era la prima lezione di comicità del maestro Roberto Fricantoni. Grazie mille. Ma la dobbiamo censurare, volgare. La barzelletta? Sì. È ormai andata. I'm gonna walk by faith on a termina lo spazio a nostra disposizione. Pochi minuti alle 9 di quest'oggi andiamo ad archiviare la puntata 175, la troverete tra poco su RadioRockFM.com in streaming, nei programmi in archivio e in podcast tramite quelle diavolerie lì tecnologiche. Vi ricordo gli appuntamenti del prossimo weekend. Venerdì vi trovate con Max De Rio, se lo volete, a Montelupo Fiorentino all'Oblivion, e sabato sera invece, amici milanesi, tornerò a roccheggiare con l'operaio del rock and roll all'Atomic, serata matta qui a Milano. Ci si risente domani, se lo vorrete, dalle 7 alle 9, qui sulle frequenze di Rock FM, per quella che sarà la puntata 176 di Pane, Burro e Rock and Roll, la tua colazione rock, tutte quelle robe lì, no? È andata a trombetta anche per quest'oggi, via. Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock, pane, burro e rock and roll. E devi curitina, se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E come ogni giorno è un piacere passare il testimone al collega Marco Garavelli, al quale oggi va un applauso. Veramente stupefatto, caro Marco. Perché, scusa? Perché prima di sabato, cioè venerdì, ho visto le previsioni del tempo in televisione. Ah. E hanno e c'era il disegnino sulla Liguria, pioggia coi goccioloni. Per domenica? C'era sabato, domenica e lunedì, pioggia fisso. Che ti avevo detto? E invece Garavelli aveva detto domenica non pioverà. E infatti domenica non ha piovuto. Tu chiedi. Come fai io a saperlo? Ho tutte le mie maghe. Oh, guarda che due ne ho visti, tutti e due dicevano che pioveva. Garavelli aveva detto no. Ho visto quello giusto io, quindi sbagliato. Può essere. Devi segnalarci quello giusto. Va bene, lo farò. Tra l'altro, e non hai ceduto di un passo, perché te l'ho detto. Marco, guarda che io ho visto le previsioni, dice pioggia. Tranquillo, tranquillo. No, io ti ho detto di no e no. Oh, è così andata, hai visto? Abbiamo scoperto il vero meteorologo che c'è in te. E credo di aver detto meteorologo anche giusto. Va bene, va bene. Vi lascio con lui fino al mezzodì. A domani. Ciao, ciao.